Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla. 12 ottobre 2019. Prendo il regionale per raggiungere il presidio in difesa del Rojava e, arrivato alla stazione di Salerno, trovo le bandiere, trovo i megafoni, trovo altre persone che oggi provano a dare forma al loro sdegno, anche fuori dai social network, per questa mattanza del popolo curdo in Siria. Ecco alcune voci presenti. Sentite? Ok. Dal punto di vista tecnico, i bombardamenti hanno come obiettivi civili, quindi stanno bombardando soprattutto ospedali, scuole, chiese. È partita una campagna da parte della Mezzaluna Rossa curda che chiede un sostegno anche di tipo economico. Chi è interessato, io ho le coordinate dove fare i versamenti. Questo è estremamente importante. Aspettare che il governo italiano prenda delle posizioni quando già ci sono stati governi norvegese, olandese e finlandese a chiudere immediatamente la vendita delle armi è una perdita di tempo. Quando invece teniamo presente che qui in regione abbiamo la Leonardo ex Finmeccanica che si trova a Capodichino, che costruisce elicotteri che vengono utilizzati da Erdogan per i bombardamenti ora in Rojava. Radure. Dirette streaming dagli eventi che colorano il tessuto multiculturale della Campania. Davide è da Cutro. Siamo qui oggi per difendere il Rojava sotto attacco da parte di Erdogan, ma soprattutto per difendere l'idea del Rojava, l'idea di confederalismo democratico, l'idea di una società diversa, anticapitalista, ecologista, basata sulla parità di genere, perché le donne e gli uomini dell'IPG e dell'IPJ hanno combattuto non solo contro l'ISIS, ma per affermare un'idea diversa di società. Ovviamente negli interessi americani c'è la frammentazione della Siria. L'appoggio che hanno dato ai curdi è un appoggio strumentale, lo sapevano bene anche i curdi, in quanto comunque la stessa leadership del PKK sta ancora sulla lista nera americana, del terrorismo americano ed europeo. Ma allo stesso tempo l'opzione di Trump porterà a ridar vita all'ISIS e soprattutto alla spartizione della Siria, che è quella a cui mira Trump, mira Israele e mira la Turchia. La Turchia già durante la guerra siriana ha finanziato truppe jihadiste e soprattutto c'è stato un cambiamento anche all'interno dell'esercito libero siriano, perché l'esercito libero siriano è stato poi fagocitato dalla maggioranza jihadista, è stato già utilizzato da Erdogan per occupare il cantone di Afrin, e queste forze jihadiste verranno utilizzate strumentalmente anche per occupare il territorio ora sotto l'autonomia curda, e l'obiettivo ovviamente è quello di fare una pulizia etnica e di ripopolare questo territorio poi con tutti i migranti che stanno in Turchia, e quindi di cambiare la demografia dell'area e soprattutto dare un colpo mortale al progetto di autonomia curdo. Io sono Salvatore di Potere al Popolo. E allora, innanzitutto è necessario capire noi cosa si può fare vivendo qua. Il processo di pace sarà lungo e noi, in quanto italiani, il nostro governo ha grandi responsabilità per quanto riguarda questa situazione. Mi riferisco per esempio alla risoluzione ormai del 2016, quando Juncker, con l'appoggio soprattutto di tutti gli stati europei, soprattutto quello italiano, ha inviato un pacchetto di bei miliardi, parliamo dai 6 agli 8 miliardi, per contenere i profughi che scappavano dalla guerra in Siria e chiudere quindi la famosa rotta balcanica, e quindi abbiamo dato abbastanza legittimità d'azione a questo personaggio. E parlo del governo all'epoca del Partito Democratico, che oggi purtroppo in modo abbastanza ipocrita, infatti non si registrano loro presenze qui, da un punto di vista strumentale di schierarsi dalla parte dei curdi per questa fantomatica pace. D'altra parte abbiamo anche delle responsabilità molto grosse sulla vendita di armi alla Turchia, e si sa benissimo che tra le fila dell'esercito turco ci sono varie milizie jihadiste. Durante la guerra in Siria all'interno di quello che era l'esercito libero siriano, il Free Syrian Army. Ci sono foto che testimoniano la presenza ad esempio di Al-Nusra e altre piccole cellule jihadiste che sono state usate insomma dal punto di vista militare. E tant'è vero che oggi le fonti parlano di circa dai 12.000 ai 18.000 prigionieri ISIS in territorio curdo che potrebbero tornare tranquillamente, e tra cui parecchie unità ad esempio di provenienza europea, quindi i famosi foreign fighters, e due di questi inglesi sono adesso addirittura sono sotto custodia americana, e questo sicuro volevo aggiungere. Poi per quanto riguarda noi si può sostenere varie organizzazioni storiche che ad esempio la Mezzaluna Rossa e tutta un'altra serie di corridoi umanitari che permettono la solidarietà concreta, e possiamo cominciare a studiare, a capire meglio per evitare tutta una serie di comportamenti che favoriscono poi questa politica dell'Unione Europea, che praticamente si è ritrovata tra le mani questi grandi errori e l'abbiamo denunciato. Una non politica estera. Io sono Rosaria Greco e rappresento Femminile Palestinese. Sostanzialmente io questo mi sento solo di aggiungere molto velocemente, che l'Europa, come molto spesso tutto l'Occidente, ha strane politiche estere, soprattutto al di là del popolo curdo, e questa è una violazione della sovranità di uno Stato, non è accettabile. Cioè io parlo anche di diritto internazionale, che è il momento che venga assolutamente applicato e rispettato, e invece non esiste, tacciamo di fronte a quello che Israele fa nei confronti della Palestina, nei confronti di Gaza, dei territori occupati, tacciamo di fronte a quello che non solo Erdogan, perché lo fa Erdogan ma con l'appoggio di tutto l'Occidente, quindi è una violazione di diritti umani e civili che è inaccettabile. Vorrei sorvolare sul fatto politico, perché dovremmo risalire a 1998, da quando il governo D'Alema, non concedendo l'asilo politico ad Öcalan, e non ha permesso che la questione curda venisse affrontata in una conferenza internazionale di pace, oltre ad averlo consegnato ai servizi segreti israeliani che a loro volta l'hanno riconsegnato nei torturatori turchi, e non aver risolto un problema politico allora, questa è la sintesi. E noi sapevamo, eravamo anche in una fase storica politica, dove aver determinato una risoluzione politica del problema curdo avrebbe anche significato di ricetto anche affrontare il problema della questione palestinese. Ora ci troviamo a distanza di più di 21 anni e ci sta una cosa un'assurdità enorme. Al di là vedere nuovamente bambini, anziani, che sembrava quasi che stavano cominciando a vivere nella propria terra, con i propri usi, costumi e anche con elaborazione di modelli sociali che oggi l'Occidente dovrebbe prendere a riferimento per concepire una società migliore, vedere queste cose, la prima, l'impeto e la rabbia. Noi nel 98 facemmo delle iniziative, anche perché a Roma Piazza Cielimont si trasformò in Piazza Kurdistan. Piazza Kurdistan divenne la simbologia di tutti i popoli oppressi, tantissimi compagni, tantissime realtà, tutta la comunità curda di mezza Europa spassa si raggregò a Roma, e fu questo l'inizio di che cosa? Di far conoscere per tutta la nostra sinistra l'esistenza di questo grave problema che era quello curdo. È tanto vero che dal 98 ad oggi Il popolo curdo è stato, è rientrato nei nostri cuori come quello del popolo palestinese. Ora trovarsi che nuovamente questi delinquenti, questo stato mafioso turco, perché con anche i messaggi di ricatto all'Europa fanno capire che noi abbiamo il mondo che è condizionato da due stati mafiosi, israeliano e turco, che condizionano l'equilibrio del pianeta, perché fare guerre producono immigrazione, fare guerre significa distruggere l'ambiente, e quindi questi poveri cristi dove debbano andare? Questa è la domanda, diciamo, che viene d'impeto, di passione. Poi il ragionamento politico è chiaro ai suoi tempi, però c'è la cosa più importante, è quella di fermare la mattanza che è in atto. E se ricordiamo storicamente quello che ha combinato l'esercito curdo, l'esercito turco alle comunità curde, dove sono stati i primi a teorizzare lo stupro etnico, l'incendio dei villaggi, giocavano nelle montagne a pallone con le teste dei curdi presi prigionieri, ci rendiamo conto di quello che mostri poveri cristi di donne, ragazzi, bambini, anziani curde stanno passando. Parecchio territorio all'ISIS è stato riconquistato, stanno ritornando nelle loro case. Ma la situazione è drammatica, nel senso io conosco parecchi siriani, io sono stato in Siria, e la situazione è drammatica, proprio dal punto di vista umanitario, anche perché l'Occidente sulla Siria ha imposto sanzioni su medicinali, alimenti, e quello che manca, cioè i siriani stanno ritornando ai loro luoghi, a lavorare, a vivere normalmente, ma quello che manca sono i medicinali, e derrate alimentari di base, questo è il problema. Secondo me il concetto principale di bombardamento è sbagliato, perché di sicuro non siamo per l'idea che per avere la pace bisogna fare la guerra. Noi comunque ci schieriamo contro la guerra e contro qualsiasi forma di repressione, specialmente se questa forma di repressione viene applicata sui popoli più deboli oggettivamente, che quindi anche hanno anche difficoltà ad esprimere un dissenso, in quanto le forze maggiori tentano di reprimere qualsiasi forma di contrasto, sia dal contrasto politico, ma poi effettivamente anche dal lato pratico. Saluto a tutti gli amici di Radio Antenna Migrante, sono Rocco Agostino e anch'io ho partecipato alla manifestazione e faccio questa testimonianza perché è successo un fatto significativo. Arrivo alla manifestazione, incontro Tony, l'altro amico di Radio Antenna Migrante, e subito arriva incontro Vanna D'Ambrosio con delle carte in mano. Purtroppo sono le carte di un decreto di espulsione, neanche a farla apposta, di un ragazzo curdo che si trova alla manifestazione. Praticamente ha visto appunto la scritta Kurdistan e si è avvicinato incuriosito. Questo ragazzo ci ha spiegato che si chiama Abdullah, ha 25 anni e anche lui è del Kurdistan, più precisamente di un paese che si chiama Mus. Ci ha spiegato che ha cominciato un viaggio dal Kurdistan a piedi. Il suo intento è tuttora quello di raggiungere gli altri suoi familiari che si trovano in Francia, a Marsiglia. E Abdullah ci ha raccontato che ha percorso a piedi la Turchia, passato i Balcani, la Grecia, la Serbia, il Montenegro, sino a giungere in Slovenia e infine in Italia. Ha svolto questo viaggio assieme ad altri due amici, a suoi due amici, uno che si è fermato a Milano, un altro che è riuscito ad arrivare a Nizza. Lui invece, il suo intento era quello di passare per Ventimiglia, passare la frontiera francese ed arrivare infine a Marsiglia, dove lo attendono i suoi cugini, i suoi zii. Però alla frontiera a Ventimiglia è stato fermato dalla polizia di frontiera e dopo 7 mesi di viaggio a piedi, in cui ci ha spiegato che ha passato montagne, ha dovuto scalare diverse montagne appunto perché per stare attento nei posti di frontiera a non farsi trovare dalla polizia, e è giunto a Ventimiglia. La polizia di frontiera invece lì lo ha trovato senza documenti e un po' esausto appunto. Abdullah ha avuto qualche reazione anche dovuto al fatto che la polizia gli ha preso il telefono, i soldi, quindi ci ha raccontato che è nata un po' una colluttazione, quindi la polizia non lo ha trattato con le buone maniere, diciamo così, e perciò ha ricevuto questo, è stato accompagnato a Taranto dove è stata fatta l'identificazione e ha ricevuto un decreto di espulsione. E in primo momento abbiamo cercato di capire, di metterci, di muoverci per un eventuale ricorso, però abbiamo capito che il suo intento era quello di andare in Francia, di sentire la famiglia, quindi siamo riusciti a contattare la sua famiglia in Francia e quindi appunto si muovono. Questo familiare ha rassicurato che si muove lui appunto per venire a prendere Abdullah e per portarlo in Francia, insomma. Nel frattempo, giustamente, Abdullah aveva molta fame, ci ha detto che 4 giorni che non mangiava, e ci siamo mangiati un kebab giustamente insieme, perché poi parlavamo di cosa voleva mangiare, ma una pizza qua, là, una cosa. Alla fine ho detto che preferivo un panino, ho detto vabbè, andiamo sul sicuro, andiamo sul kebab, e infatti lui ha gradito, insomma ne ha presi 2. Una storia normale, alla fine fatta di umanità, di persone che si sono messe a disposizione, hanno fatto fare una chiamata, hanno dato un panino, insomma, ad una persona che aveva fame, però di questi tempi sembra un qualcosa di eccezionale, forse è questo che fa riflettere, che mentre c'è questa persona che si è fatta 7 mesi di cammino per trovare un posto migliore, altri suoi connazionali, purtroppo altre persone che vivono come lui nello stesso posto, nello stesso mondo, che condividono la stessa cultura, la stessa lingua, purtroppo alcune non ci sono più e altre vengono barbaramente bombardate, quindi questo insomma una piccola storia che fa capire come la vita continua, però purtroppo non per tutti, perché alcuni sono incappati sotto le bombe, purtroppo. E speriamo che questa piccola manifestazione abbia fatto sentire altre voci, che si vanno ad aggiungere ad altre voci, a quantomeno a sollevare un interesse di chi dovrebbe prendere le decisioni a favore dell'uomo e mai contro l'uomo. Mi chiamo Gennaro Vallone. La politica è sempre più fatta attraverso l'uso delle armi. D'altronde, se le armi si producono, poi bisogna utilizzarle. Cioè, ogni anno si produce un numero maggiore di armi, sia in termini di quantità, sia in termini di valore economico, cioè di dollari. Ora, le armi, quando si producono, sono prodotte per essere consumate, cioè vendute e quindi utilizzate e fare morti e distruzioni. E tanto è vero che nel mondo noi abbiamo decine di conflitti. Questi conflitti sono soprattutto in Africa e in Asia e in quello che noi occidentali chiamiamo Medio Oriente. L'ultimo è questa invasione della Siria da parte della Turchia per colpire i territori in cui c'è la presenza curda, e c'è questo esperimento della Confederazione Democratica del Kurdistan, quello che viene conosciuto come la zona del Rojava, e in cui c'è questo esperimento politicamente, umanamente e culturalmente fondamentale. Ma in realtà tutta la Siria è una delle zone più martoriate del mondo. La Siria ha più di un terzo della popolazione fatta di gente che doveva scappare dalle sue case, o sono sfollati interni o sono rifugiati all'estero. Una parte dei rifugiati all'estero, circa 3 milioni, è in Turchia. Di questi 3 milioni, circa mezzo milione nella sola Istanbul. Istanbul ha il suo centro metropolitano, cioè il comune diciamo di Istanbul, ha circa 6 milioni di abitanti. Ci sono molti più rifugiati siriani a Istanbul che in tutto il territorio italiano, e che è circa la... Questo è un fatto fondamentale, perché poi questa popolazione viene utilizzata come arma di ricatto verso, e Erdogan così sta facendo, ma non è la prima volta, ma è successo tante altre volte che la popolazione rifugiata è stata utilizzata come arma di ricatto. Questo che cosa ci dice però? Ci dice pure che l'arma di ricatto dei rifugiati è utilizzabile dal governo turco, perché il governo turco ha un accordo con l'Unione Europea. Un accordo fatto a marzo del 2016 in cui si dice: noi ti diamo 3 miliardi ogni 3 anni, noi Unione Europea, e tu ti tieni i rifugiati. C'è scritto così, è un comunicato stampa dell'Unione Europea marzo 2016. E così è andata. Ora lui può ricattare l'Unione Europea, ma questo significa anche però che, come dire, perché è possibile questo ricatto? Perché è possibile questo ricatto? È possibile perché l'Unione Europea, con i suoi governi e quindi con la maggioranza della sua popolazione, è d'accordo con questo accordo con l'Unione Europea. Quindi siamo noi complici della trasformazione di esseri umani in armi di ricatto. Accettare l'arrivo di persone richiedenti asilo in Europa significa togliere ad Erdogan questa possibilità di ricattarci, e significa quindi, è una delle condizioni fondamentali per consentire all'Unione Europea di fare una politica estera diversa da quella che sta facendo, perché la politica estera dell'Unione Europea che sta facendo è una politica di tipo coloniale, imperiale. Come cittadini e cittadine democratiche dell'Unione Europea, noi non possiamo tollerare, accettare una politica di tipo imperiale, soprattutto una politica di tipo imperiale ipocrita, cioè l'Unione Europea ha belle parole però ha fatti di tipo imperiale. Allora, quello che noi come cittadini e cittadine possiamo chiedere ai nostri governi e quindi poi alla Commissione Europea è che smetta questa faccia dell'ipocrisia e che cambi la politica estera, e che trasformi la politica estera dell'Unione Europea, quindi anche dello Stato italiano, in una politica di cooperazione, a partire dalla cooperazione con i paesi, del Mediterraneo. Per ascoltare e riascoltare Radio Antenna Migrante, vai sul sito www.stranierincampania.it. RAM vive all'interno di Impact, FAMI 2014-2020, codice 2451, cofinanziato da Unione Europea, Regione Campania, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dell'Interno. Grazie e a risentirci alla prossima.